sei solo una persona molto sensibile. Ma adesso procediamo con ordine, facendo un percorso a ritroso. Potresti iniziare parlandomi ad esempio dei tuoi incubi e dei tuoi sogni. Niente di più divertente, dottore. Basta partire dal punto fermo che nel mio pianeta onirico, come d'altronde nella mia vita quotidiana, non esistono il bianco e il nero come due cose chiare e distinte, ma tutto si mischia sapientemente tra mille sfumature e il caos totale. Dottore, facile generalizzare. Facile generalizzare. Facile generalizzare con i sogni altrui. Facile generalizzare. Facile generalizzare. Facile generalizzare, ma non coi miei. Così che spesso mi succede che bacio principesse e diventa rosa. Cavalieri mascherati che scopro solo dopo essere miei amici. E sogno di diventare sordo alle grida e sentir cose che altri non sentono, veder cose inesistenti e di essere cieco alla realtà. Facile generalizzare.